Ad alta voce, Michela Cescon legge Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. Settima puntata. Il mio mestiere. Il mio mestiere è quello di scrivere, e io lo so bene da molto tempo. Spero di non essere fraintesa. Sul valore di quello che posso scrivere non so nulla. So che scrivere è il mio mestiere. Quando mi metto a scrivere mi sento straordinariamente a mio agio e mi muovo in un elemento che mi par di conoscere straordinariamente bene. Adopero degli strumenti che mi sono noti e familiari e li sento ben fermi nelle mie mani. Se faccio qualunque altra cosa, se studio una lingua straniera, se mi provo a imparare la storia o la geografia o la stenografia, o se mi provo a parlare in pubblico o a lavorare a maglia o a viaggiare, soffro e mi chiedo di continuo come gli altri facciano queste cose. Mi pare sempre che ci debba essere un modo giusto di fare queste stesse cose che è noto agli altri e sconosciuto a me. E mi pare d'essere sorda e cieca e ho come una nausea in fondo a me. Quando scrivo, invece, non penso mai che c'è forse un modo più giusto di cui si servono gli altri scrittori. Non me ne importa niente di come fanno gli altri scrittori. Intendiamoci, io posso scrivere soltanto delle storie. Se mi provo a scrivere un saggio di critica o un articolo per un giornale a comando, va abbastanza male. Quello che allora scrivo lo devo cercare faticosamente come fuori di me. Posso farlo un po' meglio che studiare una lingua straniera o parlare in pubblico, ma solo un po' meglio. E ho sempre l'impressione di truffare il prossimo con delle parole prese a prestito o rubacchiate qua e là, e soffro e mi sento in esilio. Invece, quando scrivo delle storie, sono come uno che è in patria, sulle strade che conosce dall'infanzia e fra le mura e gli alberi che sono suoi. Il mio mestiere è scrivere delle storie, cose inventate o cose che ricordo della mia vita, ma comunque storie, cose dove non c'entra la cultura, ma soltanto la memoria e la fantasia. Questo è il mio mestiere e io lo farò fino alla morte. Sono molto contenta di questo mestiere, non lo cambierei per niente al mondo. Ho capito che era il mio mestiere molto tempo fa. Tra i 5 e i 10 anni ne dubitavo ancora e un po' mi immaginavo di poter dipingere, un po' di conquistare dei paesi a cavallo e un po' di inventare delle nuove macchine molto importanti. Ma dopo i 10 anni l'ho saputo sempre e mi sono arrabattata come potevo con romanzi e poesie. Ho ancora quelle poesie. Le prime sono goffe e coi versi sbagliati, ma abbastanza divertenti. E invece, a mano che passava il tempo, facevo delle poesie sempre meno goffe, ma sempre più noiose e idiote. Io però non lo sapevo e mi vergognavo delle poesie goffe. E invece quelle non tanto goffe e idiote mi sembravano molto belle. Pensavo sempre che un giorno o l'altro qualche poeta famoso le avrebbe scoperte e le avrebbe fatte pubblicare e avrebbe scritto dei lunghi articoli su di me. Mi immaginavo parole e frasi di quegli articoli e li scrivevo dentro di me per intero. Pensavo che avrei vinto il premio Fracchia. Avevo sentito dire che c'era questo premio per gli scrittori. Non potendo pubblicare in volume le mie poesie, dato che non conoscevo allora nessun poeta famoso, le ricopiavo bene su un quaderno e disegnavo un fiorellino sul frontespizio e facevo l'indice e tutto. Mi era diventato molto facile scrivere delle poesie. Ne scrivevo quasi una al giorno. M'ero accorta che se non avevo voglia di scrivere, bastava che leggessi delle poesie di Pascoli o di Gozzano o di Corazzini per avere subito voglia. Ne venivano fuori o pascogliane o gozzaniane o corazziniane. Poi in ultimo molto d'annunziane quando ho scoperto che c'era anche lui. Però non pensavo mai che avrei scritto poesie tutta la vita. Volevo scrivere dei romanzi presto o tardi. Ne ho scritti 3 o 4 in quegli anni. Ce n'era uno intitolato Marion o la Zingarella e un altro intitolato Molly e Dolly, umoristico e poliziesco, e un altro intitolato Una donna, d'annunziano, in seconda persona, storia di una donna abbandonata dal marito. Mi ricordo che c'era anche una cuoca negra. E poi uno molto lungo e complicato con storie terribili di ragazze rapite e di carrozze. Avevo perfino paura a scriverlo quando ero sola in casa. Non mi ricordo niente. Mi ricordo soltanto che c'era una frase che mi piaceva moltissimo e mi sono venute le lacrime agli occhi quando l'ho scritta. Egli disse: «Ah, parte Isabella». Il capitolo finiva su questa frase che era molto importante perché la pronunciava l'uomo che era innamorato di Isabella ma non lo sapeva, non l'aveva ancora confessato a se stesso. Non ricordo niente di quell'uomo, mi pare che avesse una barba rossastra. Isabella aveva lunghi capelli neri con riflessi azzurri, non so altro. So che per molto tempo mi prendeva un brivido di gioia quando ripetevo fra me: «Ah, parte Isabella». Ripetevo anche spesso una frase che avevo trovato in un romanzo d'appendice sulla stampa e che diceva così: «Assassino di Gilonne, dove hai messo il mio bambino?» Ma dei miei romanzi non ero tanto sicura come delle poesie. Rileggendoli ci scoprivo sempre un lato debole, qualcosa di sbagliato che sciupava tutto e che mi era impossibile modificare. Intanto pasticciavo sempre un po' fra il moderno e l'antico, non riuscivo a piazzargli bene nel tempo. Un po' c'erano conventi e carrozze e un'aria da rivoluzione francese, e un po' c'erano poliziotti con sfolla gente, e tutto a un tratto veniva fuori una piccola borghesia grigia, con macchine da cucire e gatti, come c'è nei libri di Carola Prosperi, e vicino alle carrozze e ai conventi ci stava proprio male. Ondeggiavo tra Carola Prosperi e Victor Hugo e le storie di Nick Carter. Non sapevo tanto bene quello che volevo fare. Mi piaceva moltissimo anche Anni Vivanti. C'è una frase nei Divoratori, quando lei scrive allo sconosciuto e gli dice: «La mia veste è bruna». Anche questa è una frase che ho ripetuto molto tempo fra me. Durante il giorno mormoravo fra me queste frasi che mi piacevano tanto: «Assassino di Gilonne», «Parte Isabella», «La mia veste è bruna», e mi sentivo immensamente felice. Scrivere poesie era facile. Le mie poesie mi piacevano molto, mi parevano quasi perfette. Non capivo che differenza ci fosse tra loro e le poesie vere pubblicate dai veri poeti. Non capivo perché quando le davo da leggere i miei fratelli ridacchiavano e mi dicevano che avrei fatto meglio a studiare il greco. Pensavo che forse i miei fratelli non si intendevano granché di poesie. E intanto dovevo andare a scuola e studiare il greco, il latino, la matematica, la storia, e soffrivo molto e mi sentivo in esilio. Passavo le giornate a scrivere le mie poesie e a ricopiarle nei quaderni e non studiavo le lezioni, e allora mettevo la sveglia alle 5 del mattino. La sveglia suonava, ma io non mi svegliavo. Mi svegliavo alle 7 quando non c'era più tempo di studiare e dovevo vestirmi per andare a scuola. Non ero contenta, avevo sempre una paura tremenda e un senso di disordine e di colpa. Studiavo a scuola, nell'ora di latino la storia, nell'ora di storia il greco, sempre così, e non imparavo nulla. Per un bel pezzo ho pensato che valeva la pena, perché le mie poesie erano così belle, ma a un certo punto mi è venuto il dubbio che non fossero tanto belle e ho cominciato ad annoiarmi a scriverle, a cercare degli argomenti con sforzo, e mi pareva d'aver già dato fondo a tutti gli argomenti possibili, d'aver già usato tutte le parole e le rime: speranza lontananza, pensiero mistero, vento argento, fragranza speranza. Non trovavo più niente da dire. Allora è cominciato un periodo molto brutto per me e passavo il pomeriggio a cincischiare fra parole che non mi davano più nessun piacere, con un senso di colpa e di vergogna per quanto riguardava la scuola. Non mi passava mai per la testa d'aver sbagliato mestiere. Scrivere volevo scrivere, soltanto non capivo perché ad un tratto i giorni mi fossero diventati così aridi e poveri di parole. La prima cosa seria che ho scritto è stato un racconto breve, di 5 o 6 pagine. Mi è venuto fuori come per miracolo in una sera, e quando poi sono andata a dormire ero stanca, stordita e stupefatta. Avevo l'impressione che fosse una cosa seria, la prima che avessi mai fatto. Le poesie, i romanzi con le ragazze, le carrozze mi parevano a un tratto molto lontani, in un'epoca scomparsa per sempre, creature ingenue e ridicole di un'altra età. In questo nuovo racconto c'erano dei personaggi. Isabella e l'uomo con la barba rossastra non erano dei personaggi. Io non sapevo niente di loro all'infuori delle frasi e delle parole di cui mi ero servita nei loro riguardi, ed erano affidati al caso e all'estro della mia volontà. Le parole e le frasi di cui mi ero servita per loro le avevo pescate su a caso. Era come se avessi avuto un sacco e avessi tirato su a caso ora una barba e ora una cuoca negra o un'altra cosa che si poteva usare. Questa volta invece non era stato un gioco. Questa volta avevo inventato delle persone con dei nomi che non mi sarebbe stato possibile cambiare. Niente di loro avrei potuto cambiare, e sapevo una quantità di particolari sul loro conto. Sapevo com'era stata la loro vita fino al giorno del mio racconto, anche se nel racconto non ne avevo parlato perché non era stato necessario. E sapevo tutto della casa e del ponte e della luna e del fiume. Avevo 17 anni allora, ed ero stata bocciata in latino, in greco e in matematica. Avevo pianto molto quando l'avevo saputo, ma adesso che avevo scritto il racconto sentivo un po' meno vergogna. Era estate, una notte d'estate. La finestra era aperta sul giardino e farfalle scure volavano intorno alla lampada. Avevo scritto il mio racconto su carta a quadretti e mi ero sentita felice come non era mai successo nella mia vita e ricca di pensieri e di parole. L'uomo si chiamava Maurizio e la donna si chiamava Anna e il bambino si chiamava Villi e c'era anche il ponte e la luna e il fiume. Queste cose esistevano in me e l'uomo e la donna non erano né buoni né cattivi, ma comici, un po' miserevoli. E mi pareva allora di scoprire che così dovesse essere sempre la gente nei libri, comica e miserevole insieme. Quel racconto mi sembrava bello da qualunque parte io lo guardavo. Non c'era nessuno sbaglio. Tutto succedeva a tempo, nel momento giusto. Adesso mi sembrava che avrei potuto scrivere milioni di racconti. E ne ho scritti davvero un certo numero, a intervalli di 1 o 2 mesi, qualcuno abbastanza bello e qualcuno no. Ho scoperto allora che ci si stanca quando si scrive una cosa sul serio. È un cattivo segno se non ci si stanca. Uno non può sperare di scrivere qualcosa di serio così alla leggera, come con una mano sola, svolazzando via fresco fresco. Non si può cavarsela così con poco. Uno, quando scrive una cosa che sia seria, ci casca dentro, ci affoga dentro, proprio fino agli occhi. E se ha dei sentimenti molto forti che lo inquietano in cuore, se è molto felice o molto infelice per qualunque ragione, diciamo terrestre, che non c'entra per niente con la cosa che sta scrivendo, allora, se quanto scrive è valido e degno di vita, ogni altro sentimento s'addormenta in lui. Lui non può sperare di serbarsi intatta e fresca la sua cara felicità o la sua cara infelicità. Tutto s'allontana e svanisce, ed è solo, con la sua pagina. Nessuna felicità e nessuna infelicità può sussistere in lui che non sia strettamente legata a questa sua pagina. Non possiede altro e non appartiene ad altri. E se non gli succede così, allora è segno che la sua pagina non vale nulla. Ho scritto dunque dei brevi racconti per un certo periodo, un periodo che è durato circa 6 anni. Siccome avevo scoperto che esistevano i personaggi, mi pareva che avere un personaggio bastasse a fare un racconto. Così andavo sempre a caccia di personaggi, guardavo la gente in tram e per la strada e quando trovavo una faccia che mi pareva adatta a stare in un racconto, ci intessevo intorno delle particolarità morali e una piccola storia. Andavo anche a caccia di particolari sul vestire, l'aspetto delle persone, sugli interni delle case o sui luoghi. Se entravo in una stanza nuova, mi sforzavo di descriverla nel mio pensiero e mi sforzavo di trovare qualche minuto particolare che sarebbe stato bene in un racconto. Tenevo un taccuino dove scrivevo certi particolari che avevo scoperto o piccoli paragoni o episodi che mi ripromettevo di mettere nei racconti. Nel taccuino scrivevo per esempio così. Egli usciva dal bagno trascinandosi dietro come una lunga coda il cordone dell'accappatoio. «Come puzza il cesso in questa casa!» gli disse la bambina. «Quando ci vado io non respiro mai!» soggiunse tristemente. «I suoi riccioli come grappoli d'uva, coperte rosse e nere sul letto disfatto, faccia pallida come una patata sbucciata». Tuttavia ho scoperto che difficilmente queste frasi mi servivano quando scrivevo un racconto. Il taccuino diventava una specie di museo di frasi, tutte cristallizzate e imbalsamate, molto difficilmente utilizzabili. Ho cercato infinite volte di ficcare in qualche racconto le coperte rosse e nere o i riccioli come grappoli d'uva e non m'è mai riuscito. Il taccuino dunque non poteva servire. Ho capito allora che non esiste il risparmio in questo mestiere. Se uno pensa, questo particolare è bello e non voglio sciuparlo nel racconto che sto scrivendo ora. Qui c'è già molta roba bella, lo tengo in serbo per un altro racconto che scriverò. Allora quel particolare si cristallizza dentro di lui e non può più servirsene. Quando uno scrive un racconto deve buttarci dentro tutto il meglio che possiede e che ha visto, tutto il meglio che ha raccolto nella sua vita. E i particolari si consumano, si logorano a portarseli intorno senza servirsene per molto tempo. Non soltanto i particolari, ma tutto, tutte le trovate, le idee. In quell'epoca che scrivevo i miei racconti brevi, con il gusto dei personaggi ben trovati e dei particolari minuziosi, In quell'epoca ho visto una volta passare per strada un carretto con sopra uno specchio, un grande specchio dalla cornice dorata. Vi era riflesso il cielo verde della sera e io mi sono fermata a guardarlo mentre passava con una grande felicità e il senso che avveniva qualcosa di importante. Mi sentivo molto felice anche prima di vedere lo specchio e a un tratto m'era sembrato che passasse l'immagine della mia felicità stessa, lo specchio verde splendente nella sua cornice dorata. Per molto tempo ho pensato che l'avrei messo in qualche racconto. Per molto tempo ricordare il carretto con sopra lo specchio mi dava voglia di scrivere. Ma non m'è mai riuscito di metterlo in nessun luogo e a un certo punto mi sono accorta che era morto in me. E tuttavia è stato molto importante, perché nel tempo che scrivevo i miei racconti brevi mi fermavo sempre su persone e cose grigie e squallide e cercavo una realtà disprezzabile senza gloria. In quel gusto che avevo allora di scovare i minimi particolari c'era una malignità da parte mia, un interesse avido e meschino per le cose piccole, piccole come pulci. Era un'ostinata e pettegola ricerca di pulci da parte mia. Lo specchio sul carretto mi è sembrato m'offrisse delle possibilità nuove. Forse la facoltà di guardare una realtà più gloriosa e splendente, una realtà più felice, che non richiedeva minuziose descrizioni e trovate astute, ma poteva attuarsi in un'immagine risplendente e felice. In quei brevi racconti che scrivevo allora c'erano dei personaggi che in fondo io disprezzavo. Siccome avevo scoperto che è bello che un personaggio sia miserevole e comico, a forza di comicità e di commiserazione ne facevo degli esseri così spregevoli e privi di gloria che io stessa non potevo amarli. Quei miei personaggi avevano sempre dei tic o delle manie o una deformità fisica o un vizio un po' grottesco. Avevano un braccio rotto e appeso al collo in una benda nera o avevano degli orzaioli o erano balbuzienti o si grattavano il sedere parlando o zoppicavano un poco. Mi era sempre necessario caratterizzarli in qualche modo. Era per me un mezzo di sfuggire al timore che risultassero incerti, di cogliere la loro umanità della quale incoscientemente dubitavo. Perché allora non capivo, ma al tempo dello specchio sul carretto cominciavo confusamente a capirlo, che non si trattava più di personaggi, ma di burattini, abbastanza ben dipinti e simili agli uomini veri, ma burattini. Nell'inventarli, subito li caratterizzavo, li segnavo d'un particolare grottesco. E c'era in questo qualcosa di un po' malvagio, c'era in me allora come un risentimento maligno nei confronti della realtà. Non era un risentimento fondato su qualcosa di vivo, perché ero allora una ragazza felice, ma nasceva come reazione all'ingenuità. Si trattava di quel particolare risentimento che è la difesa della persona ingenua, sempre portata a credere d'essere presa in giro, del contadino che si trova da poco in città e vede ladri ovunque. Sul principio ne andavo fiera, perché mi pareva un grande trionfo dell'ironia sull'ingenuità e su quegli abbandoni patetici dell'adolescenza che si vedono tanto nelle mie poesie. L'ironia e la malvagità mi parevano armi molto importanti nelle mie mani. Mi pareva che mi servissero a scrivere come un uomo, perché allora desideravo terribilmente di scrivere come un uomo. Avevo orrore che si capisse che ero una donna dalle cose che scrivevo. Facevo quasi sempre personaggi uomini, perché fossero il più possibile lontani e distaccati da me.